Cassero non andare via, nei tuoi occhi il sole muore già. Scusa se la colpa è un poco mia, se non so tenerti ancora qua. Ma cosa è stato un amore che asciugava il mare, che voleva vivere e volare, che toglieva il fiato ed è ferito mai. Non andar via, ti prego, passerotto, non andare via senza i tuoi capricci. Che farò? Ogni cosa basta che sia tua. Con il cuore a pezzi cercherò. Ma cosa è stato di quel tempo che sfidava il vento, che faceva fremere e gridare contro il cielo? Non lasciarmi solo, no, non andar via, non andar via. Senza te morirei, senza te scoprirei, senza andar via, non andar via.